che profumo di mare. Notte di luna cala, notte d'amore con te. Lungo le spiagge deserte, a piedi nudi con me. Notte di luna d'estate, ultima notte d'amore. Quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di noi resterà. Notte di luna calante, notte d'amore con te. Lungo le spiagge deserte, a piedi nudi con me, me. Notte di luna d'estate, l'ultima notte d'amore. Quando col vento l'autunno ritornerà, nulla di noi resterà.